tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Referendum, Alfano ipotizza il rinvio se sono d'accordo le opposizioni, la replica da Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle è inaccettabile. Tra poco, ad effetto giorno, avremo ospite il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Terremoto, controlli su 200.000 abitazioni, centinaia di militari per proteggere le case dagli sciacalli, in allestimento i campi, si attendono i container. In Iraq prosegue la battaglia Mosul, forse il leader del califfato, Abu Bakr al-Baghdadi, è in città. Lo scontro tra governo iracheno e Turchia, se Ankara mette piede nel paese, è guerra. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Come già sentivate nei titoli, oggi sarà una giornata un po' particolare perché ospiteremo il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dovremo metterci in collegamento con lui intorno alle 13.10 e con lui affronteremo tutta una serie di argomenti a partire dal terremoto, passando naturalmente per il referendum e su questa polemica sul possibile rinvio del voto, naturalmente la manovra, naturalmente i rapporti con l'Europa. Però, come sempre, iniziamo dalle notizie e le notizie ci portano innanzitutto proprio a parlare della consultazione sulla riforma costituzionale. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un'ipotesi, quella di un rinvio del referendum, Simone, non di oggi e che circola da alcuni giorni, ma che indubbiamente è diventata di primo piano questa mattina perché a rilanciarla ha contribuito il ministro dell'Interno Alfano. Il governo non farà alcuna richiesta di rinviare il referendum, ma qualora una parte dell'opposizione fosse disponibile a valutare un'ipotesi di questo genere, io sono convinto che sarebbe un gesto da prendere in altissima considerazione. Queste le parole di Alfano che hanno suscitato diverse prese di posizione. La stessa presidenza del Consiglio, attraverso fonti vicine al Premier, smentisce categoricamente l'ipotesi, ne è dimostrazione, sottolineano le stesse fonti, l'agenda del Premier che domani sera alle 21 sarà a una manifestazione di campagna elettorale a Padova. Le opposizioni quindi, Forza Italia dice no, rinviare il referendum sarebbe da folli, spiega Brunetta, prima si vota e meglio è, aggiunge Parisi, netta la bocciatura che arriva dal Movimento 5 Stelle, non si azzardino a strumentalizzare le vittime del sisma per i loro loschi fini politici e ad usarli come scusa per rimandare una votazione che vede Renzi perdente. L'ipotesi del rinvio è inaccettabile, spiegano dalla Lega poco fa. Lo stesso Presidente del Consiglio sulla E-News spiega, manca un mese al referendum, la sfida è impegnativa, ciascun voto può essere decisivo. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, come già si diceva anche di questo parleremo con Renzi più avanti, così come parleremo di terremoto, gli aggiornamenti di oggi. Con il passare dei giorni, dopo la nuova forte scossa di domenica, si va definendo la portata del terremoto che ha colpito l'Italia centrale. Ad oggi sono 22.000 le persone assistite dalla protezione civile, più di 6.000 sono ospitate negli alberghi sulla costa, le altre nei centri allestiti sui territori colpiti dal sisma, questo in attesa dei container promessi dal Premier Renzi entro dicembre. Il capo della protezione civile Curcio conferma l'allarme dei sindaci, sono oltre 200.000 le case lesionate all'interno del cratere sismico. Nelle zone terremotate oggi sarà in visita il Presidente della Repubblica Mattarella, venerdì è atteso invece il decreto con le nuove misure messe a punto dal governo per fronteggiare l'emergenza e pianificare la ricostruzione. La ministra della Difesa Pinotti ha assicurato l'invio di altri 500 militari che dovranno vigilare sulle case e prevenire atti di sciacallaggio. Il ministro per i beni culturali Franceschini annuncia invece l'arrivo di norme per velocizzare gli interventi di recupero del patrimonio artistico colpito. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle cronache dalla manovra e dal decreto fiscale, soprattutto oggi iniziano le audizioni. Dovranno arrivare entro il 23 gennaio le domande di chi vorrà aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia. Lo ha chiarito l'amministratore delegato dell'agenzia Ernesto Maria Ruffini tra i primi in audizione in Commissione Bilancio della Camera sul decreto fiscale. Approdati in Parlamento, manovra e provvedimento fiscale hanno infatti iniziato in mattinata l'iter in Commissione. Prime critiche arrivano dai sindacati che in audizione sul fisco chiedono di eliminare la selezione per il passaggio dei dipendenti da Equitalia, che scomparirà, al nuovo ente per la riscossione all'interno dell'agenzia delle entrate. entrate. La manovra, sotto osservazione a Bruxelles per lo sforamento del deficit al 2,3% dal 2% programmato, vale 26,7 miliardi con coperture autonome per oltre 14 miliardi e maggiore deficit per 12 miliardi. I mercati intanto guardano preoccupati al referendum costituzionale e lo spread tra BTP e Bund non arresta la corsa al rialzo. In mattinata ha sfondato i 160 punti per poi ripiegare sui 155 punti base. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo all'estero, in Iraq la battaglia per Mosul. I miliziani dell'ISIS stanno sequestrando numerosi giovani maschi nei quartieri di Mosul e li tengono in ostaggio nelle moschee del centro. La denuncia arriva dagli attivisti. Si tratta di una delle strategie messe in campo per resistere alla riconquista della città. La battaglia va avanti da diversi fronti, anche se ci sono difficoltà a causa della scarsa visibilità dovuta al maltempo. Nel quartiere di Karama, zona orientale a ridosso del cuore della capitale del califfato, gli abitanti si sono barricati nelle case. Ieri infatti molti sono finiti in mezzo al fuoco incrociato. E proprio in città, secondo le ultime notizie, si troverebbe il leader dello Stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi. La sua cattura o uccisione accelererebbe di molto, dicono alti funzionari, la caduta dell'ISIS. Intanto però si teme per i civili, 1 milione quelli a rischio in queste ore, denuncia l'ONU. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero col sorpasso di Donald Trump su Hillary Clinton nei sondaggi. Il caso FBI dunque potrebbe cambiare la faccia di queste elezioni. L'analisi di Mario Platero. Si è verificato ieri un sorpasso da parte di Donald Trump di Hillary Clinton. Il sondaggio del Washington Post e dell'ABC ha calcolato nel 46% il voto popolare a favore di Trump contro il 45% a favore di Hillary. La distanza è minima. Vi ricordo però che non si vincono le elezioni americane solo grazie al voto popolare. Ci vuole la maggioranza del voto elettorale espresso da ciascuno Stato. È più importante vincere nei singoli Stati. E su questo fronte ancora oggi Hillary Clinton resta in vantaggio, ma la tendenza è chiaramente a suo sfavore. Una situazione questa paradossale, se pensiamo che fino a pochi giorni fa, prima dell'intervento dell'FBI a gamba tesa in queste elezioni, Hillary sembrava destinata a vincere con certezza. Una situazione questa che preoccupa i mercati, che hanno chiuso tutti al ribasso ieri. Preferiscono la certezza di Hillary alle incertezze di Trump. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Mario Platero, che ritroveremo naturalmente alle 13.45 con il suo America 24. Come già vi anticipavo in apertura, oggi è una puntata speciale di Effetto Giorno. Sospendiamo, per così dire, il nostro consueto giro per l'Italia, anche se in Italia è molto rimarremo, perché ospitiamo oggi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che è in linea con noi. Buongiorno, benvenuto Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Allora, vorrei iniziare con lei dal terremoto. Venerdì un decreto nel quale lei ha già annunciato nella sua e-news che conterrà una serie di semplificazioni burocratiche. In queste ore, lo voglio ricordare agli ascoltatori, sono arrivati degli appelli anche dai sindaci che dicono: attenzione, in queste condizioni noi non possiamo intervenire su quello che serve nell'immediato, perché dobbiamo indire delle gare che sono lunghe, insomma è tutto piuttosto problematico. Ci può dare qualche linea di indirizzo su questo decreto? Andiamo con ordine. Intanto il fatto che un 6.5 non abbia procurato ulteriori vittime rispetto alle centinaia di vittime di Amatrice, Accumoli e Arquata è un mezzo miracolo. Noi siamo a distanza di 72 ore a discutere giustamente di come agevolare le pratiche, di come riportare i moduli immediatamente operativi, ma stiamo parlando dopo il più grave terremoto dal 1980 ad oggi, quindi vorrei che non sfuggisse a nessuno lo straordinario bisogno innanzitutto di sostegno alle comunità colpite. Io ieri sono stato La interrompo per dire questo probabilmente anche perché in posti come Norcia i lavori sono stati fatti dopo il sisma del 79 e dopo quello del 97, e anche i piani di evacuazione, dalle voci che abbiamo raccolto anche dalle persone che si trovavano là, hanno funzionato come dovevano funzionare. Probabilmente sì, ora è ancora presto per fare una verifica puntuale. Naturalmente dobbiamo unirci il fatto che la gente del posto era sotto pressione e tensione da 2 mesi per lo sciame sismico, comunque c'erano già i mezzi operativi, quindi insomma è un discorso difficile da ridurre in poche parole, ma la sintesi è: siamo in presenza di una situazione eccezionale e di questa situazione eccezionale dobbiamo tutti farcene carico. hanno ragione quei sindaci che chiedono più libertà nelle procedure, e noi ci attrezziamo a dargliela sempre con grande saggezza ed equilibrio, perché non possiamo nemmeno immaginare di derogare a tutte le regole e soprattutto di non poi avere la certezza di come verranno spesi i soldi. Sì, anche perché sennò poi ti trovi quello che si chiama l'impresa amica a chiamata diretta. Questa è un'ipotesi che non esiste, l'impresa amica non esiste. Stiamo ragionando di dire intanto di poter dotare quei comuni di qualche persona in più. Faccio una cosa molto che può sembrare molto semplice e banale, se volete anche riduttivo, ma la prima necessità è andare a controllare l'agibilità delle case e capire qual è la procedura standard, perché il problema non sono i soldi in questo caso. Noi tutto quello che serve per ricostruire quelle aree, a partire dalle case naturalmente, ma inserendo anche gli esercizi commerciali e le chiese, perché dobbiamo difendere un'identità comunitaria di quei territori, lo mettiamo. Il problema non è tanto i soldi, ma come arriviamo, uno, in prospettiva per i prossimi 20 anni, a prevenire, e qui c'è il grande tema del Casa Italia. C'è di una progettazione che non è mai stata fatta in Italia, me lo lasci dire, perché per anni si è pensato soltanto all'emergenza quotidiana. Noi dobbiamo avere anche questo obiettivo, dobbiamo avere uno sguardo immediato sul presente, dando magari 3, 2, 4 persone ai singoli comuni per poter lavorare. Semplificare le procedure, dire che si portano subito i moduli, i container, perché siano operativi i vari territori e non si spopolino. Ieri lo chiedevano a Preci, ma lo chiedono a Norcia, lo chiedono nei comuni marchigiani, hanno anche ragione a chiederlo. E contemporaneamente dall'altro lato, però, per essere chiari, che non ci siano problemi o che qualcuno, come posso dire, approfitti per non rispettare totalmente le regole. Dunque si tratta di avere un atteggiamento molto serio, molto saggio, molto prudente, buon senso, il buon senso del buon padre di famiglia, e contemporaneamente stringersi attorno a queste popolazioni, perché vi garantisco, avendoci parlato, ma come dire, ciascuno di noi può facilmente fare il conto. Quando tu hai una situazione dove da 2 mesi tutti i giorni c'hai una scossa, 2 scosse, 3 scosse, e in alcuni casi le scosse sono come quelle che conosciamo, che abbiamo visto, 6.5, è evidente che la prima tenuta è la tenuta psicologica, e non è semplice. Dunque tutti uniti intorno ai nostri connazionali, poi però diciamolo, ricostruiremo tutto insieme, e lo facciamo ovviamente partendo dal decreto di venerdì, che sarà un decreto che semplificherà le regole, ma continuerà ad avere i controlli, perché semplificare sì, annullare i controlli no. A proposito dei controlli, c'è questo ticket tronca cantone, no, del quale si parla, tronca affiancato a cantone, l'ex sì, commissario di Roma. Questo è già previsto dal codice degli appalti, che vi sia un responsabile, un prefetto che aiuti sulle gare, che controlli sulle gare. In questo caso naturalmente si applica sia al decreto che abbiamo già presentato per Amatrice, Accumoli, Arquata e gli altri territori, che a questo che stiamo per fare. E quello che vorrei che fosse chiaro è un evento eccezionale. Di fronte all'evento eccezionale guardiamo ovviamente, innanzitutto la prima priorità è la compassione e la condivisione nei confronti di chi. Ieri c'era una signora di 103 anni, ieri a Preci, io ero accanto a una bambina di 2 mesi che si chiama Viola, la mascotte del campo, e nello stesso campo c'è una signora sfollata a 103 anni, la signora Emma. Allora, abbiamo bisogno innanzitutto di farsi carico della condivisione del dolore di queste persone, altrimenti diventa soltanto un fatto tecnocratico. Sì. Dall'altro però, regole più semplici, e certezza assoluta della trasparenza, per cui tutte le varie gare saranno attentamente monitorate anche da questa struttura cantone tronca, e contemporaneamente però il bisogno di far restare lì quelle popolazioni là dove è possibile, no? Mi scusi, è vero, noi siamo molto attenti a tutto questo, stiamo continuando ad ospitare persone che ci raccontano il momento che stanno vivendo, e per carità, e però l'elemento tecnocratico deve esserci. Lei diceva i soldi ci sono, e francamente da dove li caviamo? E ulteriore, sarà ulteriore extra deficit? No, dunque il deficit quest'anno è a livello più basso degli ultimi 10 anni, questo perché deve essere chiaro rispetto a tante cose che si sentono dire in televisione, sui giornali e nel dibattito politico. Il deficit è quest'anno fissato per il Parlamento a un massimo di 2,4, nella nostra proposta di legge, legge di stabilità al 2,3, quindi è il più basso, per intendersi, dal 2007. Per dare un dato preciso, puntuale e di riferimento cronologico, chiunque può controllare. Il tema è che noi abbiamo immaginato, attraverso sistemi di incentivi fiscali e attraverso l'intervento, diciamo, di sostegno immediato, di avere una ricostruzione che si spalmerà nel corso dei prossimi anni. Non è che tu la ricostruzione la fai tutta nel 2017. Cioè, cosa accade? Ora questi stanno dentro dove, questi nostri connazionali? Sì, mi scusi, però per fare questo, naturalmente, visto che abbiamo avuto un secondo terremoto, voi avete previsto uno stanziamento per il primo terremoto, quello che ha colpito Amatrice, per intenderci con gli ascoltatori. Adesso abbiamo un secondo fronte di emergenza, no? Con una serie di altri paesi distrutti o in gravissime condizioni. Pensiamo a Norcia su tutti, certo, perché è diventato un po' il simbolo. Immagino che ci voglia ulteriore denaro da stanziare, o no? E se sì, siete già in grado di dire quanto oppure no? Io capisco che l'Italia sta dando una dimostrazione di efficienza, ma immaginare che 48 ore dopo, 72 ore dopo, noi sappiamo già quanto sarà necessario nei prossimi mesi ed anni mi sembra difficile. Cioè, me la faccia dire così, ancora non sappiamo quali sono le case agibili e no. Ma quindi venerdì sarà un decreto sulla prima emergenza, un po' come il primo Amatrice? Aspetti, sono due cose diverse. Le ordinanze di prima emergenza sono già state fatte. È stata fatta il 25 agosto per Amatrice, poi è stata fatta, diciamo, per il terremoto di Camerino del 26 ottobre, quello di mercoledì scorso, e poi è già stata fatta anche per quello di chiamiamolo di Norcia, per definirlo, perché poi giustamente ci sono tante altre popolazioni interessate, ma per capirci tra di noi. Questi tre eventi sismici hanno per tutti e tre un'ordinanza già fatta con circa 50 milioni che sono per l'immediata emergenza, per la protezione civile, è a parte. Benissimo. Poi c'è un decreto legge che è stato fatto alla fine di settembre, all'inizio di ottobre, che è in Parlamento in discussione e che partiva da Amatrice, e un altro decreto che sarà fatto invece venerdì, poi potrebbero anche confluire, ma questa è tecnica parlamentare, in un unico atto, lo vedremo, non interessa a nessuno. I soldi e le risorse sono già stanziati nel piano pluriennale di legge di bilancio. Che cosa ha, di quello di cui avremo realmente bisogno, che siano perché noi abbiamo più soldi, cosa vuol dire? Tu hai già sul 2017 uno spazio di circa 3 miliardi di euro, che diventano 5-6 nell'arco del 2018 sulla base delle necessità, cioè non c'è un stanziamento specifico, puntuale, perché ancora non sei in grado di capire quanto ci vorrà, quanto servirà per rimettere a posto la casa degli abitanti di Norcia, ancora non abbiamo i danni. È accaduto 3 giorni fa. Allora, ci sono degli spazi di azione. Poi, se vi sarà bisogno di avere più risorse, ricorrendo a ulteriori spazi, in questo caso di deficit, se ci sarà bisogno per rimettere a posto, noi metteremo i denari necessari. Perfetto, se quindi ci sarà bisogno. Io questo volevo capire. Quindi siete pronti in caso di necessità a fare altro deficit se necessario per ricostruire e per aiutare. Al momento non ve ne è la necessità. Allora, se lei la mi fermo domanda, però, sì, scusi, prego, un secondo, prego, perché almeno mi spiego. Se un sindaco di un comune non terremotato, un sindaco dal Piemonte alla Calabria, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, oggi è nelle condizioni di dover mettere a posto la propria scuola, io dico a questo sindaco: fai il progetto, perché i denari li troviamo, i denari li liberiamo, i denari per l'edilizia scolastica stanno fuori dal computo del patto di stabilità. Perché stanno fuori dal computo del patto di stabilità? Perché un paese che ha avuto in 7 anni tre terremoti in sette anni, è evidente che ha il terremoto come clausola di evento eccezionale. Dunque, quando lei parla di ulteriori spese, lei definisce extra deficit, diciamo così, queste spese qui sono spese che stanno fuori dal patto di stabilità. Chi lo ha previsto questo? Una decisione di Renzi contro l'Unione Europea? No! Il trattato dell'Unione Europea, i regolamenti dell'Unione Europea nel 1997 prevedono espressamente questa regola, che è di buon senso. Quindi non si tratta di andare a violare il patto di stabilità, si tratta di dire che questi soldi stanno fuori dal patto di stabilità. Noi, io ci aggiungo, accanto al terremoto già accaduto, tutti quegli interventi di edilizia scolastica che possono servire, perché, scusate, io non trovo un genitore in questi giorni con cui parlo che non mi dica: oh, ma siamo tranquilli sulle scuole dei nostri figli, anche se stanno a 400 km di distanza dal terremoto. E allora l'idea è: non importa la polemica politica, per una santa volta possiamo mettere al centro l'interesse del paese senza dividerci. Tutto ciò che serve per la stabilità dei nostri figli, io sono per metterlo, e questo si scomputa dal patto di stabilità in nome delle regole europee. Se allora, poi c'è da discutere, si discute. Si discute. Allora, la fermo un attimo perché abbiamo anche i nostri appuntamenti, c'è il traffico, e poi voglio parlare con lei del referendum perché, insomma, si sta montando parecchia panna su questa vicenda del possibile rinvio, ne parliamo tra un attimo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, in linea con noi sempre il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il tema dell'ipotesi di rinvio del referendum. Ne ha parlato oggi il suo Ministro dell'Interno, Angelino Alfano. È Ministro dell'Interno di questo paese. Del suo governo, del suo governo. Governo. No, del suo governo, sì. Perché sia una posizione che ovviamente il Ministro Alfano sta facendo un ottimo lavoro su tutte le questioni, come tutti i ministri. L'ipotesi dello spostamento del referendum però non esiste, punto. E del resto, da quello che ho capito, Alfano l'aveva messa in tono dubitativo. Indipendentemente da come è stata messa da lui e da altri, non perdiamo tempo in queste vicende. Cioè, chi come me ieri era in un campo gestito dalla Caritas che accoglie le persone che sono terremotate non si preoccupa della data del referendum. Noi facciamo la nostra campagna, il referendum è una cosa bella, permetterà ai cittadini di esprimersi, sarà una campagna elettorale in cui decideranno le persone e quando decidono le persone va sempre bene. Io trovo che questo dibattito sia abbastanza surreale, nel senso che pur di non parlare del merito del referendum, una volta alla settimana c'è un argomento a piacere su cui si cambia discussione. Beh, però insomma, sarà surreale, però appunto ne ha parlato un ministro del suo governo, insomma, quindi non è che ci stiamo inventando qualcosa. Non soltanto il ministro, qualcuno, anche diciamo comprensibilmente, ha detto che succede, cosa non succede, che si fa, cosa non si fa. Alfano ha dato la disponibilità, è legittimo che lo abbia fatto, ha espresso una propria valutazione, anche dando la disponibilità alle opposizioni, siccome abbiamo detto che non è un argomento in discussione, nel senso che il referendum si tiene il 4 dicembre. Parliamo, se volete parlare del referendum, parliamo del referendum. Se volete parlare del terremoto, parliamo del terremoto, ma evitiamo di incrociare le due cose che sinceramente non hanno niente a che vedere. Io sono molto convinto che quando c'è un passaggio democratico come quello del referendum sarà interessante capire se l'Italia vuole cambiare o non vuole cambiare. Perché se vince il sì, si cambia. Non si cambiano soltanto degli articoli della Costituzione, si riduce il numero dei politici, ma si semplifica la vita di tante persone, perché da chi ha dalla sanità in mezzogiorno fino ai trasporti eccezionali o alle imprese, cambiando il titolo quinto cambiano molte cose, cambiano per chi fa politica, perché ci saranno meno politici e io spero un po' più buona politica. Se vince il no rimane tutto come adesso, esattamente come adesso, e quindi di conseguenza questo è l'argomento di discussione, nient'altro. Tra l'altro c'è grande incertezza, no, su questo voto, i sondaggi danno, alcuni sondaggi in vantaggio, il no, danno molto vicini comunque il no e il sì, e anche sulla base di questa incertezza abbiamo visto i rendimenti dei titoli di Stato decennali salire molto nell'ultimo periodo, di una sessantina di punti base nell'ultimo periodo. Vorrei capire, secondo lei è attribuibile solamente a questa incertezza? Ci sono preoccupazioni ulteriori? Insomma, del resto qua abbiamo anche la stessa Commissione Europea che ci dice, insomma, al di là del terremoto, al di là di tutto quanto, la tendenza al vostro deficit è in rialzo, quindi un filo di preoccupazione per i nostri conti pubblici è possibile che ci sia. No, non è vero che la tendenza al deficit è in rialzo, il deficit sta scendendo, perché basta dire i numeri, era al 4% nel 2011, è andato al 3% e poi al 2,6%, al 2,4%, al 2,3%. Detto questo è secondario, andiamo alla sostanza. È evidente che da qui ai prossimi 32 giorni ci sarà dalla mattina alla sera una discussione sul sondaggio, avanti quello, avanti l'altro. Io stavo sentendo, in attesa di collegarmi con lei, Platero, il vostro corrispondente dall'America, dagli Stati Uniti, che raccontava ad esempio l'altalena di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove si voterà tra qualche giorno, si voterà l'8 novembre. Prima sembrava che avesse vinto la Clinton a mani basse, poi la Clinton ha avuto il problema il giorno 11 settembre durante la cerimonia, e quindi è andata immediatamente giù, ha perso un sacco di punti Trump, è passato in testa, poi Trump ha avuto lo scandalo sessuale, è tornata in testa la Clinton, poi adesso c'è lo scandalo FBI e si dice che sono più vicini al pareggio. Nel giro di un mese quante volte è cambiato lì il clima dentro i sondaggisti? Detto questo, io credo che la discussione non sia più tra i sondaggisti e non sia più nemmeno tra i politici. Io continuerò ovviamente a fare la mia campagna elettorale come è giusto che sia, ma ormai decidono i cittadini, e il punto vero non è capire se diranno sì o no, è capire se riusciremo a chiarire dettagliatamente qual è la domanda, perché qui si vota non sul ti sta simpatico Renzi sì o no, ti sta simpatico Brunetta sì o no, ti sta vuoi al governo un politico o un tecnico, il futuro della legislatura quanto deve durare, la domanda è un'altra, la domanda è vuoi superare il bicameralismo come funziona oggi paritario, cioè Camera e Senato che danno la fiducia a tutte e due, vuoi ridurre costo e posti dei politici, vuoi sopprimere il CNEL e vuoi cambiare il titolo quinto? Questa è la domanda. Chi vota sì ottiene questi obiettivi, chi vota no lascia le cose come stanno per adesso e ragionevolmente per il futuro. Questa è la domanda. Lo spread, vediamo quello che accadrà sullo spread. No, non la preoccupa comunque. Io penso che l'Italia abbia la possibilità di entrare nel futuro ed è il motivo per il quale secondo me questa è una grande occasione, perché poi sul dibattito sul governo che verrà si fa con le elezioni, non con il referendum, cioè alla fine chi prende, chi vota, chi sceglie si fa con le elezioni e di conseguenza è evidente che il mondo si aspetta che l'Italia scelga il futuro, ma che cosa si aspetta il mondo è meno importante di che cosa decideranno i cittadini. Quindi, senta, pieno rispetto per la gente italiana che voterà e deciderà. Senta, tornando a bomba sulla domanda che facevamo prima, mi scusi se torno sul tema del deficit, però il punto è proprio quello. A me sembra che Bruxelles sia stata abbastanza secca su questo, nel senso, vi ha detto attenzione, strutturalmente il vostro deficit è in crescita. Padoan dice che i termini di calcolo sono diversi, e però come dire, la frizione c'è e il tema c'è. Ma la frizione c'è da sempre, se diamo retta e ascolto al continuo chiacchiericcio che si esprime non attraverso documenti ufficiali ma le indiscrezioni filtrate dal portavoce della commissione X Tizio Caio Sempronio che sussurra al suo amico giornalista, è un grandissimo mondo, una grandissima bolla mediatica meravigliosa, un Truman Show che appassiona gli addetti ai lavori. Andiamo alla sostanza, quant'è il deficit dell'Italia? 2,3. Quanto è quello della Spagna? Il 5. È chiaro questo concetto? La Spagna è chiaro che fa più crescita di noi, fa il doppio del deficit. Ma la Spagna ha un debito pubblico più basso, figuriamoci. Uno dei motivi per cui voglio cambiare questo paese, voglio che si voti sì al referendum, è perché non ne posso più con la generazione di quelli che hanno fatto il debito pubblico nel nostro paese scaricando ai figli, cioè a noi e soprattutto ai nostri figli, il conto da pagare dei propri limiti. Dall'80 al 94, l'ho detto l'altro giorno a Ciriaco De Mita, che è stato uno dei protagonisti di quell'evento e che è un sostenitore del no, quella realtà lì, quella classe dirigente lì è passata dal 57 al 124% nel rapporto debito-PIL. È chiaro che hanno indebitato le nuove generazioni ed è chiaro che noi dobbiamo stare attenti rispetto alle cose che dice l'Europa, però parliamoci chiaro, noi siamo al 2,3. La Francia, lei sa quant'è il deficit della Francia? È sopra il 3%. Senta, non è che non rispetta, non rispetta neanche Maastricht. Senta, tra l'altro il famoso... No, perché almeno, perché io l'Italia tutte le volte fa la faccia all'Europa, ci dice, l'Europa ci dice, oh l'Europa inizi anziché a dire a dare qualcosa all'Italia, visto che noi tutti gli anni mettiamo 20 miliardi nel bilancio europeo e ne recuperiamo 12 e poi ci dobbiamo prendere la linea sull'immigrazione da persone che prendono i nostri soldi e che poi ci fanno anche la morale. Volevo arrivare proprio a questo, insomma, volevo arrivare proprio a questo. Gli ungheresi, lo scontro è duro con Orban, no? Ma non è duro con gli ungheresi, non è duro, è che Orban, che è una persona intelligente, io non condivido niente della politica di Orban, ma è un uomo molto intelligente, ha perfettamente capito che nella politica italiana c'è un cambiamento strutturale e lo ha capito perché, da uomo intelligente qual è, ha saputo leggere la mia frase, sapete che c'è? Fate come vi pare, ma dal febbraio 2017 quando si discute di bilancio ci facciamo sentire anche noi, mi spiego. E quindi siete pronti a mettere il veto? Il veto sul bilancio cosa vuol dire? Che quando c'è stato Mario Monti, altro sostenitore del no peraltro, ma ormai si fa prima dei leader politici del passato, si fa prima a dire chi è per il sì, chi è per il no. Allora Mario Monti quando era Presidente del Consiglio ha chiuso un bilancio dell'Europa in cui noi oggi diamo in automatico 20 miliardi all'Unione Europea e ne ricaviamo 12. Ne riceviamo 12. Ok? Questo è il meccanismo. In questo meccanismo Orban va a nozze, perché Orban e gli altri paesi dell'est europeo prendono i soldi in più e sono paesi che recuperano dalle tasse italiane ciò che serve per i loro paesi. È un meccanismo di solidarietà che è anche comprensibile, è sempre così, quindi, oddio, nell'ultimo periodo è un po' peggiorato, ma è comprensibile che ci sia dei paesi contributori e dei paesi che prendono, ma quei paesi che prendono non possono pensare di prendere soltanto. Quando è arrivata la vicenda dell'immigrazione io ho detto scusate, quindi, quindi se la politica ungherese sui migranti rimarrà la stessa e di alcuni paesi dell'est, l'Italia metterà il veto sul bilancio. Il bilancio europeo del 2020, perché si inizia a parlarne tre anni prima, dal 2020 al 2026 può vedere due tipi d'Italia. Un'Italia dei tecnici come quella che ha discusso il bilancio precedente, quello che è in vigore adesso. Il bilancio è di sei anni, no, in Europa. Mi scusi Presidente, però ho capito che ha bisogno di spiegare, però la domanda era secca, le chiederei una risposta secca su la questo. La risposta sta nella domanda, perché l'ho comunicato io che mettiamo il veto, quindi sì, la risposta è sì. Lei mi ha fatto una domanda a una considerazione che avevo espresso ieri, quindi la ringrazio, mi fa molto piacere che lei mi aiuti a ridire la stessa cosa. Volevo soltanto spiegarla, cioè che nel 2000 il bilancio non è annuale, è ogni sei anni. 2014-2020 l'ha fatto il governo dei tecnici e ha dato un sacco di soldi ai paesi dell'est. Se ci sarà un governo di politici in grado di dire ragazzi è finita la pacchia ai paesi dell'est Europa, saremo in condizione di dire più onori ed oneri per tutti. L'immigrazione non ci lasciate soli a gestirla e poi pensate di pretendere i nostri soldi. Non voglio dire taccerianamente voglio indietro i miei soldi, perché non è quello il nostro modello, ma dire molto seriamente adesso l'Italia si fa rispettare credo che sia un fatto di buon senso. Ultima domanda, che siamo in chiusura: se vincono i no al referendum si dimette o no? Se vincono i no al referendum l'Italia perde un'occasione, se vince il sì si semplifica. Ho già detto più volte che non intendo parlare di quello che faccio io, perché tutte le volte che ne parlo la domanda è personalizza. Quello che io faccio è molto chiaro in me da sempre, però no, è secondario. Io ho grande... Quindi se lo tiene per sé, nel suo intimo, no, per così dire. Chiari, tra me, ora il mio intimo, non esageriamo, voglio... Io ho molta autostima, notoriamente, qualcuno dice anche troppa, però nonostante l'autostima sono ben consapevole che il mio destino personale vale molto, molto, molto meno della riforma costituzionale. Questa riforma è per i nostri figli, ragazzi. Se cambia e si semplifica, diventiamo un paese in cui finalmente non abbiamo gli stessi meccanismi barocchi. Quindi la sostanza, la sostanza è che a questa domanda d'ora in poi non risponderà mai più. No, d'ora in poi, degli ultimi tre mesi che dico d'ora in poi e continuo a non rispondere. Però la fantasia e l'originalità di alcuni giornalisti non ha limite, quindi immagino che potranno tornare a fare la stessa domanda. Io le dico quello che ho sempre detto negli ultimi mesi, ragazzi, questo è un referendum sul quale l'Italia si gioca il proprio domani. E il 5 dicembre le domande non saranno sia che vinca il sì sia che vinca il no che cosa fa Renzi. Il 5 dicembre la domanda è: l'Italia è in condizione di essere un paese più semplice in grado di affrontare la globalizzazione o no? Il responso non lo devo mica dare io, lo danno i cittadini, evviva, e quello che sarà senza questo atteggiamento, oh mamma mia, che paura, c'è il referendum, oh, ma qui sono i cittadini che votano, come si fa a aver paura della democrazia? All'attacco, a discutere, a parlare, a ragionare, certo, continuando a fare il proprio lavoro a partire dal terremoto, come stiamo facendo, e devo dire che peraltro è abbastanza riconosciuto, cioè i tempi in cui il giorno dopo il terremoto si annunciava aumento della benzina, aumento delle sigarette e situazione di emergenza per cui il Presidente del Consiglio andava sui luoghi del terremoto tre mesi dopo, è finito. Noi siamo andati tutte le volte qualche ora dopo e siamo andati qualche ora dopo dicendo non si aumenta una tassa, il tempo finché faccio il Presidente del Consiglio notizia. Io non si aumenta le tasse. E questa la prendiamo una buona notizia. La ringrazio. Vabbè, però è la realtà degli ultimi due anni e mezzo. Un abbraccio e buon lavoro. Grazie. A Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Voglio rassicurare gli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo che ovviamente nei prossimi giorni, domani e dopodomani, ospiteremo esponenti del no al referendum, come è giusto e naturale che sia. Adesso ci fermiamo, ci sentiamo tra un attimo per i mercati e poi andremo a chiudere. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, lo avete sentito poco fa, è intervenuto ad effetto giorno, dice che sull'ipotesi di rinvio del referendum, l'ipotesi di rinvio non esiste, legittima la posizione di Alfano, ma il tema è surreale. Il terremoto, controlli su 200.000 abitazioni, centinaia di militari per proteggere le case dagli sciacalli, in allestimento i campi, si attendono i container. In Iraq prosegue la battaglia Mosul, forse il leader del califfato Abu Bakr al-Baghdadi è in città, lo scontro tra governo iracheno e Turchia, se Ankara mette piede nel paese è guerra. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci qua, è stata, come avete sentito, una puntata un po' particolare quella di oggi, quindi ci rimane solamente il tempo in quest'ultimo punto di lanciare, di sentire che cosa succede sulle strade e poi dare la linea a Mario Platero. Ci risentiamo come sempre alla fine per i saluti.